24 mattino. Sembra che l'Europa non si stia comportando particolarmente bene con l'Italia, nonostante i proclami, perché comunque tra le mascherine che sono sparite piuttosto che la BCE e cose del genere. Non vorrei che quando finirà tutto questo l'idea anti-europeista sia ad altissimi livelli e quindi si rischi di un'uscita dell'Italia dall'Europa, a furor di popolo però intendo. Buongiorno, io spero che nella puntata odierna date un po' di spazio a noi lavoratori. Nel mio caso io porto il gas, bombole in giro, e l'azienda sono un paio di settimane che, diciamo, in gergo stanno a fare i botti, che stanno a vendere tantissimo. Se non c'era questa cosa del virus, adesso stavamo più o meno a casa 3 giorni su 7. E in tutta risposta a me mi hanno dato una mascherina ieri, logicamente usata tutto il giorno perché sennò nei posti non mi fanno entrare. A oggi è completamente nera. Buongiorno, ma perché non parlate di quello che sta succedendo qui in Repubblica Ceca, un paese che appartiene all'Unione Europea? In 24 ore hanno deciso di cacciare via tutti gli italiani che si trovano qui per turismo, per altri motivi, come fossero degli appestati. Hanno chiuso di fatto Schengen, hanno chiuso le frontiere. Repubblica Ceca che in realtà ha chiuso a 15 paesi, non solamente all'Italia, a 15 paesi. E vedremo se funzionerà, perché mi pare che finora tutti questi provvedimenti abbiano funzionato molto poco. Il virus c'è, ormai è in giro per l'Europa, e non solo per l'Europa naturalmente, anche negli Stati Uniti. Sui lavoratori, sì, è un grande tema questo, un grande tema. Oggi parleremo dei lavoratori metalmeccanici, lo faremo con Marco Bentivoglia, da FIMCISL, alle 8.20. Cercheremo di fare un punto, perché ieri ci sono stati anche una serie di scioperi spontanei, la preoccupazione degli operai, ovviamente, non solo degli operai, anche di chi fa altri lavori, come il nostro ascoltatore, delle dotazioni che hanno le aziende per le norme igienico-sanitarie. E poi sarà anche difficile per le aziende, cioè se non le troviamo noi le mascherine, sarà difficile anche per le aziende trovarle, suppongo. Quindi anche presente la volontà di ottemperare a queste norme, non è facile. E il fronte europeo, dice l'ascoltatore, non lo so, in tutta sincerità. La mia impressione è che le istituzioni europee si stiano muovendo positivamente, le istituzioni politiche europee. Ieri Lagarde ha sbagliato, Christine Lagarde ha sbagliato, ha detto le parole sbagliate in conferenza stampa, cioè non è tanto la decisione, che è stata una decisione morbida, ma probabilmente per lasciar da parte insomma qualche arma in più per un momento successivo, ma queste parole nelle quali ha detto non è nostro compito chiudere gli spread. Ecco, là, posto che Mario Draghi non ha mai detto niente di straordinariamente diverso, lo ha detto con altre parole, forse in questo momento si poteva semplicemente stare zitti, punto, e lasciare che le cose andassero come devono andare. E però dall'altra parte mi pare che Bruxelles invece i segnali positivi li stia dando, prova ne sia, c'è un po' su tutti i giornali oggi. Questa, come sapete, questa seconda parte di 24 mattino, che inizia alle 7:20 di questo venerdì 13 marzo, è dedicata proprio alla lettura dei giornali, si parla del fatto che lo stesso patto di stabilità potrebbe essere ignorato, a partire ovviamente dalla regola la famosa regola del 3%. E veniamo proprio alle prime pagine dei quotidiani, alle aperture. Tensione sulle nuove regole, il titolo del Corriere della Sera. Resistere, quello del Quotidiano Nazionale. Virus, per l'Europa il 3% non è più un tabù, scrive la stampa. Italia sola, Mattarella sferza l'Unione Europea, è quello del Messaggero. Non c'è tregua, titolo della Repubblica, disastro in borsa, Mattarella dall'Europa, l'Europa aiuti non ostacoli. Il Sole 24 Ore, le borse affondano, lo spread vola a 253, gaffe della Lagarde, Mattarella reagisce. L'Europa se ne frega del virus è il titolo di Libero, l'Unione si conferma ente inutile, l'Europa ci dà una mano ad affondare quello della verità, la BCE affonda le borse in due mosse, il titolo del Manifesto, fuoco amico è quello del Giornale. La Fiera di Milano diventa ospedale, il titolo del Fatto Quotidiano, mentre Avvenire, arriva l'ora di fermarsi, scioperi in alcune fabbriche, crollo storico della borsa e bufera sulla BCE che non convince. E la Gazzetta dello Sport prende di petto la questione del calcio Eurodeliri, il calcio nel caos tra rinvii e ipotesi, l'UEFA non decide dalla Champions all'Europeo, tutto è a rischio. E iniziamo la nostra rassegna stampa, è una rassegna stampa che oggi dedichiamo quasi interamente al coronavirus, all'esplodere di questa emergenza e alle norme che dovranno arrivare. Più avanti con Paolo Mieli verremo alla questione che ha a che fare con la Banca Centrale Europea, tutto l'aspetto economico, gli operai che in assenza di protezioni non vogliono più andare al lavoro e anche i primi provvedimenti che si stanno ipotizzando o che sono già in campo per autonomi, partite IVA, ma anche per tutti i lavoratori a partire dalla scadenza, dal rinvio delle scadenze fiscali e contributive, lo stop ai controlli fiscali, perché sono ovviamente elementi importanti che stanno attendendo tutti, e poi per arrivare alle questioni più politiche, alle questioni internazionali. Vi voglio segnalare in questo breve tempo della prima parte due articoli invece che hanno a che fare un po' più, uno con i numeri e uno con la cronaca. I numeri, ne abbiamo parlato poco fa con il professore di fisica di Padova, lo abbiamo trattato l'argomento dei numeri dal lato dei contagi. Ma qua il quotidiano La Repubblica con Elena Dusi a pagina 14 prende di petto il tema del numero delle vittime. Come mai ci sono così tanti morti rispetto ai contagiati in Italia? Il numero viene fornito subito. La letalità è molto più alta in Italia rispetto alla Cina. 6,7% per noi e 2,4% per Pechino. Un fattore è l'età più avanzata della nostra popolazione e su questo c'è poco da fare, ma un altro dettaglio importante, nascosto fra le pieghe delle statistiche, ci chiede di riflettere meglio sulle nostre priorità. Il tasso di letalità, infatti, è il rapporto fra i decessi e i casi positivi riscontrati con i tamponi. Aumenta se si riduce il bacino dei positivi ed è proprio quello a cui stiamo assistendo. C'è un collo di bottiglia dei tamponi, racconta Elena Dusi. Fare meno tamponi, una necessità in questa fase così dura, non vuol dire solo rendere i dati meno rappresentativi. Significa che individui positivi, ma con pochi sintomi, escono ignari di casa e continuano a diffondere l'epidemia, spiega Susanna Esposito, presidente di YD, l'Associazione Mondiale delle Malattie Infettive, ordinaria di pediatria all'Università di Parma. L'abbiamo avuta ospite ieri, lo sapete. Uno studio su The Lancet spiega che ciascun contagiato diffonde il virus per un periodo compreso tra 8 e 37 giorni, in media sono 3 settimane. Ma c'è anche un'intervista interessante, ve la voglio segnalare perché è un elemento che a volte tendiamo un po' a sottovalutare, che per ogni statistica c'è l'altro lato della statistica. E dunque un professore un geriatra che lavora per l'Istituto Superiore di Sanità, Paolo D'Ancona, dice in questa intervista: gli anziani stanno pagando certo il prezzo più alto per l'epidemia, ma c'è un dato che devono conoscere, tiene a far sapere. L'85% degli ultra ottantenni guarisce, il 9% delle vittime ha oltre 90 anni, il 41% ne ha fra 80 e 89, il 33% ne ha fra 70 e 79, l'8% ne ha fra 60 e 69, il 2% tra 50 e 59 anni. C'è una piccola quota di età ignota, ci sono solo 2 39enni morti ieri che avevano già malattie gravi, e questi sono un po' i numeri del virus da pagina 14 del quotidiano La Repubblica. Il Messaggero dedica invece molto spazio a cosa si può fare, lo fanno un po' tutti i giornali perché non ci stiamo capendo niente. Cosa si può fare e cosa non si può fare? Messaggero, pagina 5, in primo piano: con la bicicletta e nei parchi, ma autocertificati. Ecco un vade mecum appunto di cosa si può fare e cosa no. La regola base è chiarissima, bisogna stare a casa. In questo modo il virus lentamente ma con certezza smetterà di circolare. Si può uscire per esigenze importantissime, ormai lo sappiamo, lavoro, salute, l'acquisto di alimentari o il quarto d'ora d'aria per i cani. Bisogna evitare contatti per le persone, bisogna stare lontani. E che cosa si può fare? Dunque si può andare in bici, si può correre, ma autocertificati. Ma c'è anche un racconto, quello di Lorenzo De Cicco, dalla Balduina, Roma Nord, fino al cuore del centro storico nel Tridente, passando nei dintorni del Vaticano e deviando dalla traiettoria impostata da Google Maps per addentrarsi tra i platani di Villa Borghese. In tutto, dicono le mappe del web, 7 chilometri lungo questo percorso, però non arrivano stop dagli agenti di stanza che si vedono di tanto in tanto. In sostanza, nessun controllo. Una pausa. Mattino. Le 7:34 minuti e 22 secondi. Qua qualche ascoltatore ci scrive a proposito della bici: la Federazione Ciclistica Italiana sconsiglia in realtà di uscire in bicicletta. Il ragionamento è molto semplice: se ti infortuni poi rischi di andare in ospedale e sono problemi, perché gli ospedali sono nella condizione nella quale sono, certamente. Insomma, qualcuno dice: perché le fabbriche si chiudono, bar e alcune industrie, ma perché la passeggiata si può fare? Credo banalmente per non impazzire, caro Ivan da Verona, perché 3 settimane sbarrati dentro casa diventa complesso, e almeno quei 500 metri di passeggiata a distanza di un metro dalle altre persone, insomma, può essere salvifica anche per la pace familiare, molto banalmente, se siete tanti in casa, fatevelo dire da uno che lo sa. Caro Paolo Mieli, caro direttore, buongiorno. Eccomi, buongiorno, buongiorno. E veniamo al cuore di questa giornata, che è un cuore, insomma, non in ottime condizioni, è quello della Banca Centrale Europea. Delle parole di Christine Lagarde che danno una botta feroce ai mercati, in particolare alla Borsa di Milano che scende del 17%, allo spread, la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi a 10 anni che vola a 253 punti, una vera e propria gaffe in conferenza stampa che ha spinto, Paolo, un fatto quasi inedito direi, anche il Presidente della Repubblica a intervenire quasi stizzito con un comunicato stampa. Oggi se i giornali italiani avessero potuto dire apertamente quello che pensano, un nome avrebbe campeggiato su tutte le prime pagine a titoli cubitali: Mario Draghi, perché Christine Lagarde ha dimostrato cosa può fare la differenza di avere una persona adeguata o una persona inadeguata alla guida della BCE. Oddio, povera Lagarde, non tutte le cose di quella che Isabella Bufacchi sul Sole 24 Ore, ma non solo lei, definisce la gaffe della Lagarde, non tutto è interpretabile come quello di una persona sciocca e non all'altezza, che dice delle parole sbagliate, poi tra l'altro se le rimangia. Insomma, sembrava uno dei peggiori leader italiani in un certo momento della sua giornata. Tant'è vero che Donato Masciandaro nel commento sul Sole 24 Ore dice: dalla BCE scelte corrette, sono le parole che sono sbagliate, però le parole contano, hanno provocato, come tu hai ricordato, un crollo in borsa e soprattutto hanno provocato uno sconcerto, guarda, non solo in Italia ma anche in tutta Europa, perché ci siamo domandati ieri tutti: ma l'Europa è all'altezza di una situazione come questa? Già i vari leader europei, quando il male ha colpito l'Italia, quasi sogghignavano, c'erano fatti vostri, insomma ci guardavano con diffidenza, e poi vedremo che adesso le cose sono cambiate. Comunque ci sono articoli su questo, la gaffe di Lagarde travolge le borse, poi dietro fronte, lo spread alto è un danno, sto leggendo dal Corriere della Sera, Federico Fubini spiega come la presidente francese deve tenere conto della cosiddetta partita tedesca, e quello che ha colpito è, come tu hai appena detto, l'intervento di Mattarella. Davvero sono parole che un Presidente della Repubblica italiana così dure e così ferme non ha mai pronunciato da quando è stata istituita l'Italia una Repubblica, mai un Presidente ha preso di petto un'istituzione europea internazionale in questo modo. Marcio Breda sul Corriere della Sera, che è l'interprete in genere più accreditato delle parole quirinalizie, dice appunto, gli mette in bocca: l'Europa deve aiutarci, non creare ostacoli, che sono parole però dello stesso Mattarella, l'ira del Quirinale, ecco, mi ha colpito. Quest'ira del Quirinale. Da segnalare anche a proposito dei giornali, che ovviamente i giornali un po' più euroscettici, no, prendono la questione di petto, come La Verità, come Libero. L'Europa ci dà una mano ad affondare, scrive La Verità. Libero, l'Europa se ne frega del virus. Insomma, anche se poi in realtà Bruxelles e Francoforte sono due fronti diversi, ossia la Commissione Europea e la Banca Centrale Europea sono due cose diverse, tanto che La Stampa apre sull'ipotesi che salti la regola del 3% nel rapporto deficit PIL, ossia si metta in discussione l'intero patto di stabilità. Lo racconta appunto La Stampa con i servizi a pagina 2 e 11. A proposito di questioni economiche, verissimo, fammi aggiungere prego, che questa cosa sarà ancora più vera quando qualche altro capo di Stato europeo non lascerà isolato Mattarella nel criticare le parole della Lagarde, perché la solidità di un'istituzione, in questo momento sto parlando dell'Europa, si vede anche quando qualcuno non si accorge del virus solo quando arriva a casa sua, o di parole sbagliate di un'entità terza, in questo caso la Lagarde, solo quando lo riguardano direttamente, provocano un crollo in borsa a casa propria. Mi sarebbe piaciuto che ieri qualche altro importante capo di Stato europeo prendesse posizione con gli stessi toni con cui l'ha preso Sergio Mattarella. Scusami. Prego, allora c'è l'altra questione che ha a che fare sempre con l'economia, adesso daremo anche qualche informazione, perché sul Sole 24 Ore ce ne sono parecchie, su il decreto che sta preparando il governo per autonomi e contribuenti in genere, ma prima c'è tutta la questione degli operai. Questa serie di scioperi spontanei nelle fabbriche sale la tensione, scrive Cristina Casadei proprio sul Sole 24 Ore a pagina 8, e oggi c'è la convocazione di imprese e sindacati da parte di Conte. Insomma, questa questione è oggettivamente al centro della scena. Sì, Diego Longhin su Repubblica: gli operai, i scioperi e assenze da nord a sud, non siamo carne da macello, mi ha colpito questo titolo, cioè chi siamo noi? Tra l'altro danno notizia che a Torino c'è stato un caso di contagio alla Maserati, e Landini, il segretario leader della CGIL, dice: salute e sicurezza vengono prima dei profitti. Ricordate che ne abbiamo parlato per mesi a proposito dell'Ilva. Adesso la questione si pone in termini internazionali. Ormai ogni paese europeo ha il diritto di superare i limiti sui conti pubblici, così dice Landini, e la fine delle politiche di austerità, ora più investimenti. Vabbè, questa è una cosa che il capo della CGIL ha sempre detto. Però questa cosa, l'articolo anche che tu leggevi di Cristina Casadei, anche qui sono allarmanti, perché vicino c'è un altro articolo di Nicoletta Picchio, che attingendo ai dati del centro studi Confindustria, provvisoriamente a rischio se chiude il sistema industriale. Cioè non è una cosa da poco questa di dire gli operai stiano tutti a casa, perché se i supermercati sono riforniti, adesso lo faccio semplice, e anche perché il sistema industriale è aperto, se no insomma le conseguenze sono da immaginare. Si chiude anche quello, perché lo ricordiamo sempre che Wuhan è una zona che rappresenta il 3% del territorio cinese, quindi gli approvvigionamenti di cibo arrivavano dal resto della Cina. Qua se si chiude tutto, si chiude tutto, tra l'altro in una situazione nella quale addirittura si parla di una sospensione del trattato di Schengen, ossia della libera circolazione tra i paesi. E qualche segnale lo abbiamo visto visto ieri al Brennero, dove, come gli ascoltatori sanno, si sono formate lunghissime code fino ad 80 km addirittura, poi si sono ridotte nell'arco della serata. C'è tutta la questione degli interventi del governo, no? Innanzitutto si inizia a pensare ad autonomi e professionisti, e questo è già, mi pare, un elemento, perché finora se ne era parlato molto poco. La sospensione selettiva di IRPEF e IVA, raccontano Celestina Dominelli e Marco Mobili, e poi più in generale regole più lasche per i contribuenti, no? Sì, regole più lasche per i contribuenti e secondo me è in arrivo un nuovo decreto. Penso, facendo una facile previsione, che questo sarà il weekend più difficile, perché è un weekend in cui faremo un bilancio, i morti sono destinati a crescere, ma è ipocrisia non dirlo. Però se grazie a questi decreti riusciremo a contenere la gente nelle case il più possibile, senza neanche alibi, concedo solo quella passeggiatina antistress che tu hai raccomandato all'inizio, ma basta, è finito lì. Oh, e raccomandiamola, passeggiatina antistress, ma lontana da altri esseri umani, cioè diciamolo, insomma, quando incrociate un altro allontanatevi o prendete un'altra strada o girate da un'altra parte. Prego Paolo, scusa. E penso che solo alla fine della prossima settimana cominceremo a vedere qualche timido segnale di speranza, ma da adesso, non da oggi, insomma da qualche giorno fino alla fine della prossima settimana ce la vedremo brutta. Nervi saldi, perché ce la faremo, usciremo. Traffico. Ed eccoci di nuovo, qualche ascoltatore ci dice fate sentire la voce del Presidente della Repubblica Mattarella, in realtà non c'è una voce, è stato un comunicato stampa ieri del Presidente della Repubblica su questo tema, come spesso avviene in questi casi. Ti porterei Paolo all'estero, perché insomma, dopo una fase di iniziale sottovalutazione, gli altri paesi, dagli Stati Uniti agli altri paesi europei, iniziano a rendersi conto che è un problema non solamente italiano, insomma non siamo noi i matti che hanno chiuso tutto, non siamo noi l'unico focolaio, il problema è diffuso, no? Cominciamo da Trump. Trump isola l'America dall'Europa, Riccardo Ballam sul Sole 24 Ore, e siamo solo all'inizio, perché Trump è stato fotografato, cioè si è fatto fotografare con Jair Bolsonaro e Fabio Weingarten. Ma chi è Fabio Weingarten? È un collaboratore di Bolsonaro che è vicinissimo, proprio gomito a gomito con Trump, ed è risultato positivo. Trump dice che lui non farà il test, che non ne ha bisogno, che è stata una cosa, lo racconta Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera, una cosa brevissima, però ha preso subito misure molto energiche nei confronti dei paesi europei, tranne l'Inghilterra ovviamente, e in Europa, come abbiamo detto all'inizio, è il momento della verità. Stefano Montefiori, sempre sul Corriere della Sera, Macron in campo, misure dure, stop alle scuole e all'università, è arrivata anche la Francia, hanno capito che chiudono le scuole, si rendono conto che dopo l'Italia toccherà a loro. Paolo, da lunedì, curiosamente, cioè uno prende una decisione giovedì, da lunedì, è un po' strano anche qua. Ma queste sono le cose che fanno impazzire, perché quando le rileggeremo, e mi auguro che saremo tutti qui a rileggere, finita questa emergenza, che è un'emergenza pari alla Seconda Guerra Mondiale, è l'unica, è molto più grande anche dell'11 settembre, è un'emergenza pari alla Seconda Guerra Mondiale, finita, ci divertiremo, il primo capitolo del libro che io e te scriveremo insieme sarà su tutte queste incredibili... Onorato che pensi a una cosa di questo genere. Okay, sì. Allora, Trudeau sta a casa con la moglie che è in quarantena, gli altri politici, Irene Soave, sempre sul Corriere. In Spagna la compagna di Iglesias, uno dei leader politici più importanti della Spagna attuale, è contagiata e hanno dovuto fare un test a tutto il governo, a attori, attrici. Anche il leader, a proposito di Spagna, anche il leader di Vox dell'estrema destra è contagiato, se non vado errato, quindi insomma. La tua è malizia politica. No, per carità, mai mi permette. Sembra criticare i leader della destra estrema. E li vedi conteggiati e ti tranquillizzi, così sto scherzando, perché bisogna scherzare anche in questi momenti. Sepulveda sta meglio, sono pagine e pagine su tutti i giornali. Tom Hanks, ti dicevo, e la moglie si sono trovati positivi mentre erano in viaggio in Australia. Naomi Campbell ha preso un aereo bardata in una maniera, devo dire, ridicola, nel senso, tutta coperta, però sembra ridicola a me oggi e forse già venerdì prossimo mi sembrerà meno ridicola. Il Mondo, Boris Johnson in Inghilterra, il Mondo sta prendendo consapevolezza adesso, è un rapporto, se tu ci pensi alle date, è come noi con la Cina, sì, quando iniziò esatto, la Cina esatto. Tutti scherzavano, ridevano, e quelli che mettevano la mascherina in Italia venivano presi in giro, ma ancora quando Attilio Fontana, il governatore della Lombardia, si è messo la mascherina, tutti hanno fatto delle gran risatine, no? Sì. Perché si è messo. Adesso sembra la cosa più normale del mondo, e il ritardo di un mese su di noi, che siamo stati colpiti in maniera più violenta, arrivano tutti i leader europei. Sì. Sai, il punto vero sarà quando potremo mettere dei tavoli di crisi in cui siamo tutti, tutti allo stesso livello, non qualcuno che fa un sorrisetto dei sì. guai dell'altro. Dell'altro, certo. E penso che questo punto vero appunto arriverà alla fine della prossima settimana. Allora. Allora Paolo, ti porterei a questo punto su di noi, sull'Italia, perché sui provvedimenti presi dal governo insomma c'è ancora qualche dubbio sollevato dall'opposizione, sollevato dalle regioni, in particolare dalla regione Lombardia, che dice non basta ancora, bisogna chiudere di più, insomma una chiusura invoca in sostanza una chiusura completa. Sì, sai qual è il tipo di negozio che la fa da padrone sui giornali? Le profumerie, perché tutti si domandano, ma povere profumerie, sono simboliche, ma come mai sono state tenute aperte? Che senso ha chiudere tutto e annunciare provvedimenti tipo One e poi tenere aperte le profumerie? E allora sono ripartite le polemiche, ovviamente non solo da parte delle regioni, tu hai ricordato Lombardia in testa, ma anche la parte politica che esprime il governatore della Lombardia, cioè la Lega, Fratelli d'Italia, tutta la destra e anche parte del governo, ma in modo più sottovoce, ecco, diciamo, chiedono un ulteriore provvedimento. Io spero, questa è una cosa, che non venga fatto di notte con le anticipazioni ai giornali, questa sì, come è successo l'altra volta, cioè, sì, 3-4 sì. volte con le anticipazioni creano nervosismo, poi c'è la corsa all'accaparramento dei profumi, non so se le prossime vittime saranno le profumerie, però sembra anche che si parli di chiudere i parchi pubblici, insomma già si comincia a parlare del prossimo provvedimento. E anche questo, non vorrei trovarmi al posto del Presidente del Consiglio, però l'idea di fare un provvedimento al giorno, perché già ancora oggi si parlerà del decreto, della messa a punto definitiva del decreto annunciato l'altra notte, quella di dover fare un decreto al giorno genera sconcerto e mette tutti in incertezza, non si sa. I giornali anche qui sì. sono pieni di articoli, si può andare a portare il cane a fare pipì, si può andare a fare jogging? Sono tutte le domande e tutti non sanno cosa fare, e nell'incertezza, io quello che dico sempre in questi giorni, nell'incertezza, se non sai esattamente se questa cosa la puoi fare o non la puoi fare, non farla, è meglio se resti a casa, cioè se puoi rinunciarci, ovviamente è meglio se resti a casa. Segnalo a proposito dei provvedimenti, permettimi Paolo, a pagina 3 del Corriere Corriere della Sera, in realtà un'intervista alla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, che fa presagire l'ipotesi di una stretta ulteriore, no? Il titolo dell'intervista a Fiorenza Sarzanini è: se necessario altre scelte coraggiose, ma adesso i cittadini non siano irresponsabili, che è poi quello il tema del quale stiamo parlando, cioè la responsabilità individuale di ciascuno, il fatto di... No, di fare le scelte quotidiane certo. Nel muoversi o no. E poi, visto che stiamo entrando, prima di chiudere, fammi segnalare che l'epicentro della crisi, la capitale della crisi, così la possiamo dire, è Bergamo, la città sospesa, 71 medici infettati dal virus e i morti in chiesa. Qui è terribile, Armando Di Lando sta leggendo sul Corriere della Sera, con 2.136 casi è la provincia con più malati. Gli appelli del sindaco Gori a restare a casa, il dubbio che all'inizio si sia sottovalutato. Si è spostato l'epicentro, purtroppo è rimasto sempre in Lombardia, purtroppo, anche se fosse capitato in un'altra regione era un guaio lo stesso, ma si è spostato a Bergamo. Bergamo è una città a cui prestare attenzione ed è Bergamo la città da cui vengono le sorprese più amare. Terribile situazione e la nostra solidarietà a Bergamo, ovviamente. Ovviamente. Prima di chiudere, fatemi dare una buona notizia. La peschiamo dal Sole 24 Ore di oggi, pagina 10, con Barbara Gobbi, la quale ci fa sapere che è arrivato il primo sì dell'Agenzia Italiana per il Farmaco a sperimentare la cura, quella della quale vi avevamo parlato ieri in rassegna stampa, quella arrivata da sperimentata a Napoli da Paolo Ascerto, un oncologo che è stato ospite, tra l'altro, di Nicoletta Carbone, se lo volete risentire. È un farmaco contro l'artrite, il quale farmaco contro l'artrite riduce l'infiammazione, quindi fa sì di fatto che si possa essere estubati prima, almeno secondo due o tre casi sui quali si è fatta la sperimentazione. Bene, partirà la sperimentazione, ce lo fa sapere Barbara Gobbi e ci fa anche sapere che Roche, che è l'azienda che produce questo farmaco, ha annunciato l'erogazione gratuita, esattamente per vedere, sperando che questo funzioni ovviamente sui pazienti più gravi e gli consenta di tornare a respirare rapidamente. Allora Paolo Mieli, grazie anche per oggi, ci risentiamo grazie. Lunedì naturalmente. Un abbraccio. Ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, avremo ospiti tra gli altri Marco Bentivogli, il leader della FIM CISL, per parlare di queste proteste nelle fabbriche, avremo Irene Tinagli, che è la Presidente della Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo, per parlare della questione di Lagarde, e poi il Brennero con Manlio Di Stefano, il sottosegretario agli esteri. A tra poco.